Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Torneremo su alcuni passaggi della conferenza stampa di ieri del Premier Conte, anche perché vi sono state reazioni, ma in apertura, visto che alle 17.30, se non dovesse essere, salvo modifiche, diciamo, inizierà il tavolo cosiddetto sulla scuola. Parleremo proprio di questo. Qualcuno ha fatto notare, devo dire che sono abbastanza d'accordo, non per criticare a priori o a prescindere, che ieri forse ci si poteva aspettare qualche passaggio in più dal Premier sulla scuola, visto che a mio avviso è così il settore, che non so se neanche chiamarlo settore, ma insomma è l'elemento più indietro, non così perché lo dica io, perché tutti gli altri paesi europei, come abbiamo fatto notare, inclusa la Gran Bretagna, con mille cautele, mille prudenze, hanno riaperto. Noi continuiamo a ragionare su settembre, ormai mi sembra chiaro che, a parte l'apertura della Scani, che ha dato la possibilità alle scuole che vogliono di organizzare l'ultimo giorno, quando sono le ultime classi, quinte, terze, medie, quinte superiori, in realtà qui si ragiona solo su settembre, ormai ne abbiamo preso atto. E dicevo, oggi c'è il tavolo per la riapertura delle scuole a settembre, tavolo allargato, va benissimo, parteciperanno enti locali, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico, sindacati, il Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche, dei Genitori delle Scuole Paritarie e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Va bene il tavolo allargato, ci mancherebbe, perché vanno presi in considerazione vari aspetti, appunto dai mezzi di trasporto alle associazioni studentesche. L'importante è che il tavolo allargato non annacqui poi la capacità decisionale, questo lo dico senza fare polemica, questo è fondamentale, perché adesso ci aspettiamo indicazioni molto chiare, anche perché se bisogna sistemare, per modo di dire, ma mettere a posto parte delle aule scolastiche, occorre partire adesso, non si può aspettare la fine agosto, la ripartenza della scuola. Ancora, tra i temi che invece tratteremo c'è un tema che riguarda direttamente l'Italia, anche se di carattere europeo, e mi riferisco alla Banca Centrale Europea, che nel frattempo continua a essere, lo dico, l'Italia sta ragionando se aderire al MES, quello sanitario, quello per il Covid. Io penso che se uno si leva il paraocchi ideologico, non ci siano dubbi su questo. Il risparmio è calcolato in 500 milioni di euro di interessi in meno all'anno rispetto allo stesso finanziamento da prendersi sui mercati, per circa 6 miliardi di risparmio. Però in questo momento la vera arma che sta funzionando, è chiaro che da sola non basta, a livello europeo, dell'area euro, è quella della Banca Centrale Europea, perché continua a mantenere i tassi bassi, continua a permettere a noi di avere uno spread più che accettabile, anche se più alto di Spagna e Portogallo, sotto intorno ai 200 punti, e la BCE, che oggi ha lasciato i tassi di interesse invariati, quindi il tasso principale rimane a zero e il tasso sui depositi a meno 0,50, in modo da in qualche modo non evitare, ma non invogliare le banche a depositare i soldi la notte, come si dice, l'overnight, perché c'è un tasso negativo. Però la cosa più importante è che la Banca Centrale Europea ha detto che gli acquisti del piano PIP saranno estesi fino al giugno del 2021 e ha aumentato di 600 miliardi il piano, portando il totale a 1.350 miliardi di euro. E il piano PIP può comprare più obbligazioni dei paesi più colpiti, questo lo ha chiarito oggi la Presidente della Banca Centrale Christine Lagarde, e non ha escluso, ha detto, l'acquisto di junk bond, cioè di titoli con merito di credito speculativo. Questo è un messaggio che secondo me viene dato soprattutto alle agenzie di rating, o meglio ai mercati con un occhio alle agenzie di rating, perché questa cosa è molto importante, quello che ha, ha ribadito oggi la Lagarde, e cioè anche se vi fosse un declassamento a livello junk, quindi a titolo di rischio di obbligazioni, la Banca Centrale Europea potrebbe continuare a comprare. Questo perché? Perché da questo punto di vista frena ogni tipo di speculazione sui debiti sovrani. E quindi dice, attenzione, anche un eventuale declassamento non comporterebbe lo stop dell'acquisto dei titoli della Banca Centrale Europea. Qualcuno mi dice 1.350 miliardi, sì, 1.350 miliardi di euro, da questo punto di vista sono 600 miliardi in più rispetto, ricorderete, al piano iniziale che era circa di 750 miliardi di euro. Allora, poi parleremo come sempre anche dei mercati finanziari. Da questo punto di vista, oggi, dopo una giornata molto buona ieri, frutto più del ragionamento sulle riaperture in Francia, in Spagna, in Italia, oggi i mercati sono molto più calmi, più 0,20 Milano, meno 0,20 Parigi, meno 0,40 Francoforte, Londra meno 0,50 e il Dow Jones invece è invariato. Oggi bene il banco BPM più 4,70, Banca Mediolanum più 3,5, Poste più 3, Unipol più 2,5, Azimut più 2,30 come Unicredit, il 2% lo guadagna Intesa San Paolo, il 2% è rialzo anche di Saipem. Chi perde è Ferragamo, Salvatore Ferragamo meno 3%, Amplifon meno 2, Atlantia meno 1,80, Exor meno 1,50 come Moncler e ST Microelectronics. L'1,30 lo perde Ferrari, l'1,20 CNH. Ancora toccheremo anche altri temi, sì, sul tema scuola avremo ospite anche Chiara Saraceno, perché al di là di quello che deciderà il tavolo di oggi, a mio avviso c'è proprio un problema culturale nell'aver lasciato indietro la scuola. L'altro tema che molti di voi mi stanno sottoponendo è la fase 3. Io adesso non ho elementi, perché ieri Conte ha detto delle cose condivisibili ma ancora troppo, diciamo, generiche. È chiaro che al di là di lo sfruttare la situazione e la crisi enorme che si è generata per mettere mano ad alcune zavorre che non è che non ci fossero prima del coronavirus, penso alla burocrazia, alla responsabilità dei funzionari, io sono d'accordo che possono essere anche incolpati tra virgolette per avere rallentato un procedimento, e al di là della giustizia civile e penale, poi io continuo a ritenere che il governo dovrà andare in maniera molto molto mirata su certi settori. Continuiamo a dirlo, faccio un esempio: ci sono imprese manifatturiere che per esempio non potranno utilizzare il plafond di soldi a fondo perduto che ha messo a disposizione il governo per un semplice motivo: le imprese per esempio di beni strumentali ma anche di beni durevoli hanno commissioni che sono spesso, che valgono centinaia di migliaia di euro, addirittura milioni di euro, che vengono date mesi prima. Quindi se tu vai a vedere, faccio per dire, il fatturato di aprile, lo compari il fatturato di aprile 2019, magari l'impresa che ha staccato la fattura in quel mese di una commissione che aveva vinto, di una commessa che aveva vinto, scusatemi, a dicembre e a gennaio, quel mese lì risulta con un fatturato più o meno in linea con quello del 2019. Il problema è che se poi non si è fermato tutto e questo lasso di tempo temporale fa sì che tu non riesca poi a fatturare a giugno, dovrai prendere atto di che alcune, cioè che ogni impresa ha tipologie di ricavo diversa. Tipicamente più alto è il valore dell'investimento, più le commesse hanno un periodo temporale lungo. Non è come un negozio che ha avuto un crollo di fatturato tutto immediatamente nel mese di aprile. E poi sui settori, perché è chiaro che alcuni settori possono sperare di archiviare l'anno male, ma almeno, diciamo, recuperare nella metà dell'anno. Altri settori dove i consumi, penso ai consumi che si muovono su base culturale, è lì il bilancio non si può certo fare adesso, ma non è solo il turismo, ci sono tantissimi altri settori connessi. Comunque, c'è qualcuno che continua a chiedermi il ripristino della classifica della settimana, vi arriveremo, non è sospesa per sempre. E vabbè, c'è qualcuno che continua a insultare, vabbè, pesci vendolo dell'economia, Dunque, vabbè, guardi che pesci vendono non è un'offesa, mi faccia altre offese, è una serissima professione, anche quando mi dice vai a raccogliere i pomodori, mi sembra, voglio dire, tutti i lavori sono ugualmente, se fatti legalmente, sono ugualmente degni di rispetto, l'unica cosa che non è degno di rispetto è diciamo, chi vive a sbaffo, e su questo, senza essere troppo offensivo, però... Ho letto una dichiarazione del presidente dell'ANPAL, Mimmo Parisi, anzi era un'intervista oggi a Repubblica, che dice: vengo attaccato, ma i navigator, lui è il grande ideatore del reddito di cittadinanza, non il reddito come misura di welfare, che continua a ritenere una cosa buona e giusta, come fu buona e giusta, anche se fatta tardi con pochi soldi, l'iniziativa del reddito di inclusione, ma lui è l'ispiratore dei navigator e quindi della parte di politiche attive sul lavoro, su cui io ho solo critiche da fare, cioè non penso che serviranno a nulla. Eppure Parisi torna all'attacco e dice: i navigator hanno lavorato da casa. Vorrei capire come, cioè cosa hanno fatto da casa. Però e avranno molto da fare quando in autunno ci sarà l'assalto ai centri. Da metà luglio in poi dovranno chiamare 2,5 milioni di aziende. Adesso facciamo una divisione tra i 2500 navigator, per favore, e i 2,5 milioni di aziende, per capire di quanti lavoratori hanno bisogno. Io la chiamo Industry Academy. Tra settembre e febbraio i centri per l'impiego hanno convocato 622.000 persone e in 65.000 hanno un impiego. Però quando gli si chiede quante di queste assunzioni sono frutto delle tre proposte di lavoro, non lo sappiamo. Cosa devo dire a Parisi? Devo dire che ogni tanto uno può anche ammettere che uno strumento pensato per altri mondi non funziona nel nostro, si può salvare il bambino e buttare via l'acqua sporca, cioè salvare il reddito di cittadinanza, come anche il reddito di emergenza, come misure di welfare importanti in un momento di crisi come questa, e dire: guardate, sul fronte navigator, quando i centri per l'impiego non sono ancora collegati tra di loro e questi 2000 navigator lavoravano da casa, e poi ripeto, cioè la matematica non è un'opinione, sono circa 2500 i navigator, e adesso vi dirò quanti, secondo Parisi, navigator, quante aziende dovrebbe chiamare ogni navigator per sapere di quanti lavoratori hanno bisogno. Praticamente ogni navigator deve chiamare 1000 aziende, per carità. Diciamo che ne può chiamare anche 10 al giorno, ammesso che abbia numeri e tutti di telefono, riferimenti, 10 al giorno, 100 giorni. Ma poi, io non capisco, Parisi pensa che le aziende a settembre saranno lì a dirgli di quanti lavoratori hanno bisogno, o ritiene che a settembre, quando scatta il vincolo, quando finisce il vincolo dei licenziamenti, invece qua rischiamo un'ondata di licenziamenti? Perché delle volte ho la sensazione che uno parli di un mondo che è diverso da quello che vedo io, però per carità, avrà ragione Parisi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque sì, io sono d'accordo che vanno considerati anche i mesi, cioè attenzione, se tu parli del mondo del commercio è chiaro che il crollo l'hai avuto a marzo e aprile, parlo del commercio al dettaglio in una città normale, se parli del mondo appunto abbigliamento e quant'altro, se parli della manifattura, soprattutto ripeto quando sono forniture di semilavorati, forniture meccaniche o prodotti finiti, stai parlando di commesse, che non è che arrivi uno in negozio, ti fa la commessa e poi il giorno dopo la viene a prendere. Sono commesse che tu hai vinto 2-3 mesi fa, che magari apparecchiature che tu hai consegnato ad aprile, se potevi essere aperto, e fatture da aprile. Bisognerà guardare di queste imprese qual è poi l'andamento a dicembre, cioè porre un orizzonte più ampio, mentre in altre tipologie di imprese, appunto quella a dettaglio, tu hai già un termometro molto chiaro mese su mese. Sì, secondo un ascoltatore 1000 chiamate sono una cosa che si può tranquillamente fare. Allora, se qualcuno di voi mi dice che conosce 1000 imprese da chiamare per sapere di quante persone avranno bisogno, io mi correggo subito. Io non ho 1000 imprese da chiamare e qualcuno ne conosco. Dovrei iniziare, non ho capito i Navigator che database abbiano, ma non ho dubbi, hanno 2,5 milioni di aziende da chiamare per capire a settembre, da metà luglio, di quanti lavoratori hanno bisogno. Io vorrei essere una zanzara, per usare diciamo un format a noi caro, e vedere che cosa succede quando tu chiami l'imprenditore con 20 dipendenti, dici, di quante persone avrà bisogno lei a settembre, che cosa ti risponde questo? Cioè, diciamo, il tasso di volgarità della risposta mi interesserebbe per capire, ma stiamo scherzando? Vabbè, andiamo avanti con le altre notizie in breve. Calano un po' le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti dopo aver toccato i 3 milioni e essere scese a 2 milioni. Sono state l'ultimo dato di 1.880.000, però complessivamente sono 21.500.000 gli americani che stanno percependo il sussidio di disoccupazione, e sono 670.000 in più rispetto alla settimana precedente. Vabbè, qualcuno mi dice: guardi, che basta usare le pagine gialle. Vabbè, se devi usare le pagine gialle, ma si trovano ancora le pagine gialle cartacee? Penso di sì, non ho la minima idea, mi cogliete impreparato, però uno prende le pagine gialle, chiama appunto 100 aziende al giorno per 100, si può fare, per carità, 10 aziende al giorno per 100 giorni, già sarebbe un numero, ragazzi. Comunque andiamo avanti. E mi stanno scrivendo molti imprenditori, ho un'azienda con 20 dipendenti, aspetto adesso la chiamata dei Navigator, come no? Dati, i Navigator hanno preso anche i 600 euro, mi risulta, questo è abbastanza così, singolare. Andiamo avanti. La Banca Centrale Europea, parliamo tra poco. Interessante la dichiarazione invece del ministro degli esteri tedesco, che ha detto, attenzione, il messaggio rivolto ai cosiddetti frugali, che io chiamo invece avidi, o paraguri, e ha detto: attenzione, non è il momento di restringere o di avere una contrazione economica, è il momento di spendere. La Germania ha lanciato oggi un nuovo pacchetto di aiuto all'economia da 130 miliardi di euro, e è un segnale forte e necessario, ha detto la Confindustria tedesca, e anche devo dire Gentiloni ha commentato positivamente, il commissario europeo. Perché è importante? Perché guardate che il pacchetto di 130 miliardi, noi speriamo, visto che abbiamo criticato la Germania per avere avuto un avanzo commerciale troppo alto in questi anni, cioè aver speso troppo poco rispetto a quello che incassava, dico male ma per capirci, è importante perché noi siamo, la Germania è il nostro primo mercato di destinazione, a maggior ragione per la meccanica e la componentistica, quindi più la Germania diciamo rivitalizza il suo mercato interno, e più dovrebbe esserci un effetto benefico diretto anche per le nostre imprese che li esportano. Vedo che la cosa dei Navigator sta scatenando. Dico, ma non è che poi Navigator chiamano tutte le stesse aziende? Ma no, avranno un coordinamento pazzesco questi 2500 Navigator. Uno dice: guarda, io sto chiamando l'azienda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'altro gli risponde, no, allora io mi prendo 1, 2, 3, oppure vanno per l'ordine alfabetico, io prendo dalla A alla C, tu prendi dalla D, poi tu prendi dalla H, non so, ma ci chiarirà tutto Parisi. Vabbè. La Spagna ha riaperto i confini con Francia e Portogallo, o meglio, scusatemi, ha annunciato che riaprirà i confini a partire dal 22 giugno, e il ministro Di Maio ha ribadito la contrarietà sulle chiusure dei confini all'interno dell'Unione Europea dopo l'incontro di ieri con il ministro francese, l'omologo francese Le Drian. Com'è lo spread, visto che l'ho citato? a 171 punti base, tasso dell'1,37%, per cento, quindi questo come effetto anche le parole di Christine Lagarde. Andiamo invece alla parte che riguarda insomma i prestiti alle imprese. Allora, l'associazione bancaria italiana, l'ABI, oggi ha chiarito che sono 500.000 le domande, di cui la stragrande maggioranza, 450.000, per i prestiti fino a 25.000 euro, per un totale di 9 miliardi di finanziamenti richiesti, sono le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia, quindi già filtrate. E poi le domande di moratorie sui prestiti invece sono a 260 miliardi. SACE, che si occupa dei finanziamenti per i gruppi più grossi, insomma quelli, ricordate la divisione, insomma, sopra i 5 milioni di euro di fatturato, dice che ha ricevuto 47 richieste di garanzie per un ammontare complessivo di 430 miliardi. E poi sulla procedura ordinaria sono invece pervenute 3 richieste per un importo complessivo di 7 miliardi di euro, tra cui la richiesta di Fiat Chrysler, dice SACE. Dall'esame del materiale fornito, della documentazione fornita, l'operazione è pienamente conforme. E poi ha detto invece Fiat Chrysler, sempre SACE, che da parte di Fiat Chrysler c'è un ulteriore livello di impegno aggiuntivo, ossia pari a 5 miliardi di investimenti sul territorio italiano, quindi 5 miliardi di investimenti aggiuntivi in Italia. Il ministro Gualtieri ha ricordato come SACE riesca a erogare la garanzia in 48 ore, quindi non è imputabile per la lentezza per quanto riguarda i tempi. E poi ha detto Gualtieri, alcune banche sono state più rapide di altre a erogare i prestiti, e fra questi due estremi c'è una media. Lo strumento del finanziamento assistito da garanzia comporta necessariamente un maggior grado di scrutinio, anche se per i finanziamenti minori esso è stato ridotto al minimo dalla normativa, perché implica la gestione di un inevitabile scambio, trade-off, tra l'esigenza di dare rapidamente supporto e la necessità di evitare abusi o persino utilizzi criminali dall'altro. Ciò significa che il finanziamento assistito da garanzia statale ha richiesto anche più tempo per essere impostato ed integrato nei processi operativi e tecnologici delle banche. Anche, lo sappiamo, ce l'avete anche indicato voi, che se ci sono stati istituti più rapidi ed efficienti di altri, così come ci sono stati numerosi casi di malfunzionamento, di criticità, che vanno individuati, risolti e monitorati. E poi all'interno di questi due estremi, quello più positivo, di chi è riuscito immediatamente ad adeguare i propri processi operativi, sfida non semplice, a erogare immediatamente questi finanziamenti, e chi invece ha anche colpevolmente non è stato sufficientemente attento e rapido, poi c'è, diciamo così, un quadro, una media, diciamo così, che è quello di un fisiologico inevitabile tempo di apprendimento dell'insieme del sistema bancario. E poi sempre sulla moratoria dei prestiti, mi fanno notare che ho detto la SACE 430 miliardi, no, 430 milioni per 47 istanze, poi invece la procedura ordinaria ha mobilitato 6,8 miliardi di garanzie per 3 richieste. Ma tornando alla moratoria, è indubbio che la moratoria, che da sola non basta, però è un respiro, vuol dire che tu sospendi i pagamenti, sostanzialmente sposti in là la scadenza. Gualtieri ha ricordato come questa sia stato un successo e abbia raggiunto quota 260 miliardi di euro, nonostante il comparto bancario abbia dovuto affrontare una mole di domande, 2.400.000 domande, in un contesto emergenziale. Da una rilevazione a carattere sistematico effettuata dalla Banca d'Italia presso le banche, risulta che a soli 2 mesi dall'iniziale attivazione delle misure di moratoria ex legge, poi a cui si sono aggiunte, usufruendo di quella nuova interpretazione della Commissione, anche quindi di quelle volontarie, sono pervenute circa 2,4 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per poco meno di 260 miliardi, è un dato che già un'indicazione evidente di quello che si può in questo caso definire successo delle iniziative di moratoria che sono state poste in essere. In termini di importi, circa l'85% di queste domande o comunicazioni è stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure. Il 2% è stato sinora rigettato, la parte restante è in corso di esame e si presume appunto che verrà accolta, nel senso che il tasso di rigetto in questo caso è molto basso, solo il 2%. Più in dettaglio, il 46% delle domande di moratoria provengono da società non finanziarie, a fronte di prestiti per 176 miliardi, le domande delle famiglie riguardano prestiti per circa 80 miliardi. Adesso andiamo sul metodo della pubblicità. Poi oggi il Premier Conte è tornato a parlare del tema economico, dicendo attenzione, il PIL potrà tornare ai livelli del 2000. E poi andremo invece sul tema della scuola, visto che dovrebbe essere iniziato, non vedo però le agenzie, adesso il tavolo allargato per la riapertura scolastica a settembre. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Non voglio più parlare del Navigator, mi segnala giustamente un ascoltatore che dice: guardi che c'è il rapporto che spesso abbiamo citato, Excelsior, delle Camere di Commercio italiane, che segnala già le necessità delle aziende. Mi ricordo benissimo quello di Confindustria Brescia e Lombardia sulle proprio le tipologie che servono alle imprese. Era pre-Covid, però vabbè, tanto Navigator ci sono a questo punto. Proviamo a utilizzarli. Che vi devo dire? Cioè, che credo questa roba qua? No, però proviamo a utilizzarli. Io sarei per misure un po' più drastiche. Comunque, meteo e pubblicità. Dai. Focus Economia. Dunque, adesso sentiamo Conte che è tornato sul tema economico. Vedo, c'è qualcuno, alcuni continuano a insultarmi sui Navigator. Guardate, i Navigator sono costati 90 milioni di euro come avvio per i primi 3.000 Navigator. Il governo poi ha dato la possibilità, dal 2021 era il governo precedente, ma non c'entra, insomma, di arrivare altri, le regioni possono arrivare fino a 6.000 Navigator. Faccio notare che contro i Navigator si era espresso anche il presidente della regione Campania De Luca, che mi sembra uno abbastanza lucido e netto in questo periodo, e in una regione in cui non è che il lavoro te lo tirino dietro. E faccio anche notare che al di là dei discorsi di Conte di ieri, che dal punto di vista dei principi vanno bene, c'erano due buchi secondo me: passaggi sulla scuola troppo brevi, e poi io mi sarei aspettato, forse il governo avrà un'iniziativa più avanti, per carità, un riconoscimento pecuniario ai sanitari, cioè ai medici, gli infermieri, gli operatori del 118, cioè tutti quelli che abbiamo chiamato eroi, per carità, non ho nessun problema, ecco, basta uscire dalla retorica, eroi però anche skei, va bene, eroi non ci mangi solo con l'eroismo. Allora iniziamo a incrementare anche, visto che Conte dice voglio riportare molti ricercatori, molti medici, sono 9.000 quelli che se ne sono andati in questi anni all'estero, iniziamo a incrementare anche gli stipendi, poi magari partiamo da quelli più collegati all'epidemia, quindi tutti i reparti coinvolti, non dico a pioggia, però insomma, dai. Allora, Conte sul PIL ha detto oggi si rischia di tornare ai livelli del 2000, serve uno sforzo corale, non conosciamo fino in fondo la portata della crisi, l'Unione Europea ha colto la sfida, ora serve un nuovo sviluppo, e ha ricordato che negli ultimi 13 anni oltre 2 milioni di persone hanno lasciato l'Italia, svuotando in particolare il Mezzogiorno. Con l'arrivo di questa crisi, che peraltro è la terza del 2009, il PIL del nostro paese tornerà ai livelli del 2000, e negli ultimi 13 anni, lo ricordo, oltre 2 milioni di persone hanno lasciato l'Italia, svuotando in modo particolare il Mezzogiorno di molte delle sue energie più preziose. Abbiamo quindi il dovere dovere tutti insieme di uno sforzo corale per recuperare questo ventennio perduto, per ricostruire uno sviluppo basato sulla coesione sociale, sulla sostenibilità, sull'innovazione tecnologica, su una vera e propria rivoluzione delle competenze. E poi è tornato sul taglio drastico della burocrazia, siamo tutti d'accordo su questo, e accelerare le riforme anche con l'opposizione. A mio avviso, più si riesce a avere delle riforme condivise dallo spettro parlamentare più ampio, meglio è. Una riforma organica per un fisco equo e efficiente e incentivi per i pagamenti elettronici. E poi c'è il tema scuola. Vorrei far sentire però un commento, quello di Totti di questa mattina a 24 mattina con Simone Spezia e Maria Ratella, perché Zaia ha detto da Conte un libro dei sogni, Meloni ha detto da Conte surreale ancora nuove promesse, Salvini ha sfidato Conte, arriviamo a burocrazia zero e flat tax, e oggi Totti, governatore della Liguria, ha detto basta conferenze stampa, ora bisogna decidere. Un nuovo patto sociale non può che partire da una parola, da un verbo, decidere. Se questo paese non comincia a decidere, continua a fare conferenze stampa, credo che non andrà da nessuna parte. E ci sono opere pubbliche che non stiamo facendo, penso alla mia gronda di Genova, ferma sul tavolo di un ministro, basta la firma. Le concessioni d'autostrada, io sono una regione dove ci sono 3 concessioni autostradali, 2 scadute, non rinnovate, e una in attesa di sapere se esisterà ancora, se viene revocata. Allora, prima cosa, basta, proclami, decidiamo qualche cosa. Io devo dire che su questo adesso va ben tutto, però visto che le opere infrastrutturali non è che le fai partire in un secondo, anche qui annunciate come volete mettere 100 opere prioritarie, avevo visto l'ipotesi di 10 commissari ad hoc, i poteri dati di commissario all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS, benissimo. Ho visto anche Zaia dire oggi, ma insomma io devo rifare il policlinico di Padova, sono 600 milioni di euro, se va avanti così ci metto 10 anni, 12 anni, adesso riprendo l'agenzia. E questo è il punto, cioè là dove a maggior ragione se l'opera è di carattere sanitario, oppure edilizia scolastica, oppure infrastrutturale, andiamo avanti, cioè date la priorità. Va benissimo la Roma-Pescara, ma se ti manca un pezzo per finire la Torino-Venezia-Trieste, finiamo anche quello. Cioè occorre qualcuno che conosca queste cose, che si chiami Cottarelli, che si chiami quello che volete voi, basta che il principio non sia qualcuno che non deve fare ombra al Premier o non deve fare ombra a Casalino, perché allora non ci capiamo più. Qualcuno di bravo, che e sei bravo si metterà in evidenza, non comitati allargati, annacquati, e che decida. Comunque, andiamo appunto sulla scuola, così. Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E grazie anche alla professoressa Chiara Saraceno, che insegna sociologia della famiglia all'Università di Torino. Buonasera, professoressa. Buonasera, insegnavo. Insegnava. Però i libri li scrive ancora. Allora, Eugenio, è iniziato questo tavolo e soprattutto è un tavolo allargato che non è di per sé stesso un male, perché la scuola, quindi partecipano gli enti locali, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, sindacati, Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche, dei genitori, delle scuole paritarie e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. A mio avviso, come metodo può anche essere giusto che tu senta tutti i vari aspetti, perché la scuola non è un settore così che vive da solo come monade, basta che poi questo non annacqui tutto. È partito e che cosa ci aspettiamo, Eugenio? Allora, è partito, vista la nutrita pattuglia di partecipanti che hai ricordato, è un tavolo che nasce come consultivo, è difficile che sia deliberativo con così tante persone. Ci aspettiamo sicuramente qualche indicazione in più in vista di settembre, magari qualche elemento aggiuntivo rispetto al titolo che Conte ha dato ieri, la scuola riaprirà a settembre con gli alunni in classe. Ecco, questo mi sembra l'obiettivo verso cui si sta lavorando. I nodi sono tantissimi, a cominciare dalle scuole inadeguate, per passare poi a quanti alunni potranno esserci nelle singole classi per rispettare il distanziamento, e via via che cosa ce ne facciamo di questi 3 mesi di didattica a distanza, e facciamo finta che è stato un esperimento e lo rimettiamo da parte, oppure può diventare un aiuto in più l'anno prossimo. Sì, fermo restando che poi è un esperimento che ha creato anche disuguaglianza sociale, perché sappiamo, un po' per motivi economici, un po' anche perché mancano le infrastrutture. Infatti io sono convinto che gli investimenti infrastrutturali vadano anche nella digitalizzazione del paese. Open Fiber non mi fa stare tranquillo, però almeno un punto. Oggi ho visto Arcuri, il commissario Arcuri, dire metteremo a disposizione 5.200.000 mascherine per gli esami di maturità e poi anche per il nuovo anno scolastico. In questo momento sono alle prese con l'esame gli studenti della terza media a distanza l'esame. E sentite cosa ha detto questa mattina il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ospite di Alessandro Milan, con Uno Nessuno e 100 Milan, e lui si chiama Antonello Giannelli. Qualche giorno fa mancavano ancora 1200 presidenti, che sono comunque meno del 10%. È bene dire che di questi 1200 posti, 700 mancavano, ripeto sempre qualche giorno fa, in Lombardia. La domanda per sostenere l'esame come presidente è una domanda facoltativa, quindi sì, non sì, è una sì, rinuncia, certo, a un obbligo. No. Allora, la sicurezza è garantita, è vero, però quello che si deve dire è che il termine per la presentazione delle domande era scaduto prima che venissero ritenute le misure di sicurezza. Quindi capisco che questo possa aver generato un po' di timore. Quindi c'è stato un manco al quale si sta ponendo rimedio con un'ordinanza che sostanzialmente nomina l'ufficio. E poi le dichiarazioni di oggi del vice ministro Ascani: a settembre tutti in classe in sicurezza. E a settembre si torna a scuola, si torna tutti a scuola, perché la didattica a distanza è stata una didattica di emergenza e adesso bisogna restituire in pieno il diritto all'istruzione ai nostri bambini e ragazzi. E quindi dobbiamo lavorare con i comuni e con le scuole, perché laddove questo distanziamento non è possibile, in quegli edifici si proceda ad individuare degli spazi più ampi dove collocare quelle classi, però è bene che si capisca da subito che l'obiettivo è tornare a scuola e tornarci in presenza, proprio perché abbiamo visto confliggere fin qui il diritto alla salute e quello all'istruzione. Abbiamo dovuto fare una scelta durissima, dolorosissima, soprattutto per chi sta in questo ministero, tenere chiusa la scuola così a lungo. Basta. Ora il diritto all'istruzione deve tornare al centro dei nostri pensieri e quindi bisogna poterlo garantire al 100%, naturalmente in sicurezza, secondo protocolli che andranno siglati, facendo tutto quello che c'è da fare. Ma a settembre si torna a scuola, è bene che lo sappiano gli studenti, è bene che lo sappiano anche le famiglie. Allora, Eugenio Bruno, altre indicazioni che potrebbero arrivare? Insomma, la Scani dice torneremo tutti a scuola, torneranno adesso, magari anch'io, secondo alcuni ascoltatori, dovrei tornare a scuola settembre. Non ho capito invece a che punto siamo sull'edilizia scolastica, ma non è una battuta provocatoria, non ho proprio capito, Eugenio. No, siamo a un punto di ripartenza anche qui. Sull'edilizia scolastica il tema non è tanto la mancanza di risorse, sebbene diciamo in uno studio di qualche mese fa la Fondazione Agnelli stimava in 200 miliardi le risorse che servirebbero. Ora dal 2015 a oggi sono stati stanziati più o meno 10 miliardi, quindi diciamo risorse in qualche modo cospicue. Il problema è che il sistema di gestione dei fondi è così farraginoso che raramente ha portato i fondi stanziati a trasformarsi in cantieri che aprivano. Il problema è che bisogna tenere insieme un ministero, i governatori, gli enti locali, cioè sindaci e presidenti di provincia, quindi lungo la filiera di volta in volta c'è sempre un intoppo. Ora col decreto rilancio si prova a intervenire. Vediamo. Ecco, ti chiedo, visto che tu segui il tema scolastico per il Sole 24 Ore da sempre, secondo te sarebbe necessario, come per altre opere anche più grandi di carattere infrastrutturale, trovare una corsia così, una corsia speciale? Perché è chiaro che poi più enti metti dentro, tra gli enti locali, il ministero e quant'altro, più lungo è l'iter, e decidere su un piano. Ci aveva provato Renzi con l'edilizia scolastica, poi l'ha annunciata e l'ha mollata lì. Trovare una corsia preferenziale? Una corsia preferenziale è indispensabile, è l'unica situazione, anche perché al di là dell'emergenza, che comunque aumenta tutti i problemi, abbiamo un patrimonio scolastico dal punto di vista dell'edilizia che è vecchio, che è insicuro e che necessitava già prima di essere essere adeguato e di essere messo a norma. Quindi tutto ciò che si può velocizzare e semplificare, benvenga. Sì, infatti questo è un suggerimento molto modesto al Premier Conte. Guardate, siccome il tema degli investimenti dobbiamo tenerci pronti quando arriveranno gli investimenti, i soldi europei, il MES c'è già, ma devi saperli spendere. Non ripeto, datelo a Cottarelli, ho letto delle ipotesi, datelo a chi volete, basta che sia competente e bravo, non, che abbia fatto qualcosa nella vita prima, che abbia lavorato prima, da qualche parte, ma che abbia lavorato e che conosca il mondo di cui parla. E trovate una semplificazione d'emergenza per i cantieri, a partire da quelli scolastici e degli ospedali, chiaramente, e poi anche i cantieri infrastrutturali. Andando anche diciamo così, a forzare la mano, non me ne frega nulla, è più, anche perché c'è la sicurezza dei nostri ragazzi o dei pazienti, ma c'è anche la ripartenza dell'economia, perché un cantiere da 300.000 euro, 400.000 euro, 500.000 euro, parlo di cantieri piccoli, comunque lascia soldi in quel territorio, molto più che non mettere soldi direttamente a pioggia nelle tasche degli italiani, che poi magari non li spendono perché hanno un'incertezza sul futuro. Professoressa Saraceno, lei è stata molto dura, intanto ringrazio Eugenio Bruno, se vuole stare in collegamento molto volentieri, ma so che stai anche seguendo il tavolo. Lei è stata molto dura nel giudizio su come si è gestita la scuola, ha detto sostanzialmente, se ho ben capito il suo ragionamento, è stata lasciata come ultimo tema di tutti i temi possibili. Assolutamente sì, mi sembra evidente, cioè non è, come dire, una mia personale opinione, si è pensato come riaprire tutto salvo questo, ma non solo, e siamo l'unico paese che non ha riaperto nulla, ma non solo, ma non si pensa neppure a come integrare ciò che è mancato in questi mesi nei mesi estivi. Io sono preoccupatissima dell'allargamento delle disuguaglianze che è avvenuto, disuguaglianze proprio cognitive, nelle conoscenze, che è avvenuto in questi mesi, perché c'è chi ce l'ha fatta a seguire la didattica online, o meglio chi aveva le famiglie alle spalle, che erano in grado. Non è solo un problema di soldi, di tablet, che pure sono poi arrivati, ma di competenze minime, anche di spazio. Se in casa c'era solo un tablet per tre ragazzi e poi dovevano fare i compiti tutti in cucina nello stesso posto, era un po' difficile. Allora, professoressa, io capisco. Non si fa assolutamente nulla. Io sono veramente scandalizzata sul fatto che, al di là dell'edilizia, su cui pure, come dire, tutto ancora fermo, e ieri Conte ha detto che i fondi arriveranno a settembre, cioè quindi da qui a settembre tuttora non spera nulla, ma che non si faccia nulla per, come scuola, lo fa l'associazionismo civico che si sta dando da fare, ma che il Ministero non percepisca come una sua responsabilità fare fronte a questo. Questo lo trovo scandaloso, onestamente. Senta, ma secondo lei, perché andiamo poi alla ciccia, perché è chiaro che qualcuno continua a scrivermi dei calendari scolastici degli altri. Lo so anch'io che la Spagna chiude più tardi e la Francia pure. Però la prima domanda è: perché non si è tentato, magari la risposta mi ha dato dopo il GR24, di allungare il calendario scolastico, visto che abbiamo la pausa estiva tra le più lunghe d'Europa per vari motivi, ma è lunghissima, quindi i ragazzi da fine febbraio, inizio marzo torneranno a scuola a metà settembre, figuratevi voi. Ma se questo secondo lei c'è stata una resistenza, diciamo così, di carattere sindacale, non dico dei singoli insegnanti, e poi se lei poi ha provato a rispondere alla domanda: ma perché la scuola è stata messa per ultima e ancora adesso stiamo ragionando? Ho visto una dichiarazione bellissima del ministro Bonetti, che adesso vado a riprendere, che dice: stiamo ragionando di nuove linee guida per i centri estivi. Ministro, i centri estivi aprono fra una settimana. Nuove linee guida, quando ce le volete dare? Quando volete darle ai centri estivi, il giorno prima? Comunque le chiedo una risposta, professoressa Saraceno, dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchese, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso continuo con la professoressa Saraceno. Voglio solo dare l'aggiornamento della Protezione Civile come ogni giorno a quest'ora. Ci sono 860 positivi, 868 positivi in meno di ieri, meno 2,2%, e questo è un dato assolutamente in linea con quello dei giorni scorsi. Anzi un po' meglio rispetto a quello di ieri. Invece anche come percentuale di calo, i decessi sono un po' saliti. Ieri erano 71, giorno prima 55, lunedì 60, domenica 75, oggi sono saliti a 88 con un più 0,3%. I guariti 957, i totali contagiati in più sono 177 in più, 15 in meno in terapia intensiva. E anche i ricoverati vanno bene, meno 254. E i malati in terapia intensiva sono scesi a 338. Cosa importante è che il numero complessivo di contagiati è in calo come trend, 177 casi contro i 321 di ieri, in Lombardia 84 casi in più, netta diminuzione rispetto ai 237 di ieri. E poi l'Istituto Superiore della Sanità dice che c'è un'Italia a tre velocità nell'epidemia del Covid, molto contenuta nelle regioni del sud e delle isole, mediamente più elevata in quelle del centro rispetto a mezzogiorno e molto più elevata nelle regioni del nord. Col massimo rispetto, ce ne eravamo accorti anche noi. Allora, professoressa Saraceno, per concludere sulla scuola, perché secondo lei non si è scelto l'allungamento di orario del calendario? È vero che la scuola finiva in molti casi l'8 giugno, però visto quello che era successo ci siamo interrogati sul perché non arrivare a cercare di fare un ampliamento del calendario, e se secondo lei hanno contribuito alle resistenze non di alcuni insegnanti ma diciamo dei sindacati. E faccio notare che in Gran Bretagna le scuole per esempio sono rimaste aperte per tutti gli operatori caregivers, cioè medici, infermieri che stavano fronteggiando l'emergenza. Professoressa. Sì, non solo in Gran Bretagna, anche in Svizzera, anche in Germania, cioè laddove le famiglie non sapevano e dovevano, i genitori dovevano lavorare, è stato tenuto aperto in sicurezza. E poi adesso sono riaperti in Germania, in Svizzera, credo anche in Francia, in Spagna hanno riaperto. Ci sono state probabilmente resistenze dei sindacati, ma anche la ministra mi è sembrata molto decisa sul fatto che il calendario era inamovibile. Pensiamo che a 15-20 giorni dalla chiusura in Lombardia e in Piemonte delle scuole, che è avvenuta a fine febbraio, l'ultima settimana di febbraio, c'è stata Pasqua e si sono fatte le sacrosante vacanze di Pasqua, cioè una cosa incredibile, impensabile. perché è l'unica routine che è stata rispettata nei confronti degli studenti. Ecco, si è detto sì, rigorosamente in casa. Rigorosamente in casa e così via. Ma va bene, ci sono le vacanze, perfetto, ma vi volete preoccupare? Non mi si può dire che poi i primi 15 giorni di settembre, quindi con un ulteriore ritardo della ripresa scolastica, saranno dedicati al recupero dei debiti, come se i debiti fossero solo responsabilità degli studenti e non anche responsabilità per colpa di nessuno, perché l'emergenza non è mica colpa di nessuno, ma una responsabilità di una scuola che non ha potuto essere sempre adeguata al bisogno dovunque e in un modo omogeneo, almeno con uno standard minimo a livello territoriale. E invece no, è tutto scaricato di nuovo sulle famiglie e sui singoli studenti. Io questo lo trovo così veramente inaccettabile, così come mi sembra un po' tardi. Adesso ho sentito che hanno fatto un'ennesima commissione tavolo, c'era già la commissione quella di, coordinata da Patrizio Bianchi, che doveva dare delle indicazioni. Qui si sommano commissioni a commissione, creando oltretutto incertezza, perché uno non sa più da quale parte arriveranno le indicazioni. Io capisco che poi a questo punto i presidi, ma anche i sindaci, che dovrebbero trovare luoghi alternativi o integrativi delle scuole, non sappiano come muoversi, perché le indicazioni ci sono, poi possono anche cambiare e non si sa mai da che parte arriveranno e quando arriveranno. Ci sono stati diversi mesi, avendo deciso già due mesi fa che la scuola sarebbe stata chiusa fino al 10-15 di giugno, c'era tempo per pensare come fare a riprendere a settembre, sì o no? Cioè, anche proprio dal punto di vista organizzativo non è semplice, però come dire, cominciare a creare dei tavoli dicendo allora se dovremmo riaprire in condizioni di distanziamento fisico cosa possiamo fare? Non possiamo cominciare adesso. Mi sembra veramente un pochino tardi. No, ma io spero soprattutto, come dice lei, che sia l'ultimo tavolo, nel senso che ci sono già le linee guida del comitato di Patrizio Bianchi, ridurre l'orario di lezione a 40 minuti, depenalizzare il reato di infortunio in istituto scolastico sotto cui rientra il contagio da coronavirus, e un 15% di insegnanti in più da assumere, oltre i 32.000 precari stabilizzati. Le superiori con gli ingressi scaglionati e posticipati per non essere nell'ora di punta dei mezzi pubblici. Per carità, spero che questo tavolo sia l'ultimo, perché non vorrei che fosse un po' fare a muina. Ma alla fine, per concludere, professoressa Saraceno, secondo lei perché c'è stata questa disattenzione, distrazione? Anch'io sono d'accordo, si è detto ad aprile si riapre a settembre, poi invece mentre siamo tornati sui nostri passi, per fortuna, su ristoranti, bar, parrucchieri dovevano aprire il 3 giugno, ne abbiamo riaperti il 18, non c'è stato neanche nessun tentativo di vedere se in alcune regioni, per esempio come hanno fatto in Francia e in Spagna, il sud, tipicamente il sud, non si potesse tornare nelle aule. Però secondo lei perché, alcuni dicono, sapete, perché gli studenti non votano e votano gli insegnanti, è vero, però votano anche i genitori, questa è la questione, è che forse i genitori quando votano non pensano a questa cosa qui. Spero che questa volta l'abbiano imparata, che si vota anche per la scuola dei propri figli, perché il problema è che in questo paese la scuola è sempre considerata una cosa secondaria. Anche lo stiamo vedendo anche nel dibattito su come verranno usati i famosi mirabili fondi del MES piuttosto che del Recovery Fund. Cioè, si pensa giustamente alla sanità, ma qual è l'altro grande settore in cui bisognerebbe investire? Perché sono nuove generazioni, dovrebbe pensando agli studenti, non solo agli insegnanti. Infatti, che sicuramente contano molto e hanno tutti il diritto che si pensi anche a loro, però la scuola è fatta per gli studenti, la scuola è fatta per le nuove generazioni. Se un paese non investe nella scuola, ma non solo dal punto di vista edilizio, ma proprio dal punto di vista che questo è un settore strategico della nostra società, che vuol dire anche la digitalizzazione, non per fare le lezioni a distanza, ma per rendere competenti questi ragazzi, oltre che a utilizzare questi strumenti e renderli anche accessibili, che ci sia la connessione, non lo so come potremo riprenderci, perché se non investiamo su quelli che, come dire, sono il futuro e sono le risorse di questa società, è proprio un modo, come dire, strano, miope di guardare, in parte perché si pensa che tanto ci pensa la famiglia. Cioè sì, anch'io penso che poi culturalmente tutto si scarica sugli insegnanti. Come battuta, li hanno chiusi in casa e hanno buttato via la chiave, tanto ci pensa la famiglia. Ma guarda, io purtroppo penso che sia così, perché c'è una cultura per cui alla fine l'ultima spiaggia è sempre la famiglia. L'idea, infatti io ho detto la prossima volta che sento in un convegno qualcuno parlare di capitale umano, metto mano alla pistola, perché poi si parla di capitale umano solo quando bisogna fare i fighi nei convegni, poi quando bisogna tirare fuori i soldi, gli investimenti, un piano serio, tutti quanti a babbo morto. E temo anche che va benissimo la sicurezza degli insegnanti, ho capito, però temo anche che appunto tutto si sia scaricato solo sulle famiglie, e poi vedremo cosa capiterà quando ritorneranno in classe. Vedo tantissimi messaggi su questo, non posso tornare sul tema, sono d'accordo che vedere i 17enni in giro a bello spritz non ha nessun senso sul tema proprio dell'epidemia, perché non ho capito perché non potessero essere in classe in 7-8, magari uno ogni 3 giorni faceva lezioni, invece possono essere in giro nei parchi, dappertutto, perché tanto non hanno una mazza da fare. Grazie anche alla professoressa Saraceno, speriamo che devo dare un'agenzia però, perché il Premier Conte, inaugurando adesso, aprendo il tavolo con enti locali, sindacati sulla scuola, con il ministro Azzolina, nell'emergenza siamo stati costretti a chiudere la scuola, ma abbiamo tratto una lezione, siamo stati costretti alla didattica a distanza, col nuovo anno scolastico l'obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un'opportunità, ma certo dobbiamo ritornare in presenza. Va bene, adesso aspettiamo di capire come. Intanto grazie anche alla professoressa Saraceno. E noi adesso cambiamo radicalmente tema, perché dalla scuola o dalla distrazione sulla scuola o incapacità di avere una visione, di cambiare le idee, di avere un po' di fantasia e di coraggio, andiamo invece alla Banca Centrale Europea, che non dico coraggio, ma almeno iniziativa forte, continua a prenderla e mi sembra per ora l'unica ciccia vera in attesa del MES e del Recovery Fund. Council decided to increase the envelope for the Pandemic Emergency Purchase Program, also known as PEP. Il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare la dotazione del programma di acquisti di emergenza in caso di pandemia, il PEP, di 600 miliardi di euro, per un totale di 1.350 miliardi. In risposta alla revisione al ribasso dell'inflazione nell'orizzonte temporale legato alla pandemia, l'espansione del PEP faciliterà ulteriormente la posizione di politica monetaria, sostenendo le condizioni di finanziamento nell'economia reale, in particolare per le imprese e le famiglie. Gli acquisti continueranno ad essere condotti in modo flessibile nel tempo, attraverso le classi di attività e le giurisdizioni. Inoltre, abbiamo deciso di estendere l'orizzonte degli acquisti netti nell'ambito del PEP almeno fino alla fine di giugno 2021. In ogni caso, effettueremo acquisti netti nell'ambito del PEP fino a quando il Consiglio direttivo non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata. E quindi Christine Lagarde ha annunciato oggi che gli acquisti del piano PIP, cioè acquisti di titoli di Stato dei paesi dell'area euro, continueranno fino a giugno del 2021, e ha rilanciato il piano mettendo sul tavolo altri 600 miliardi, portando quindi la dotazione complessiva a 1.350 miliardi di euro, con un ampio consenso dei vari governatori, ha detto la Lagarde, e che ha poi aggiunto la cosa importante, può sembrare tecnica, noi possiamo comprare più obbligazioni dei paesi più colpiti e la BCE non ha discusso dell'acquisto di bond spazzatura, però non ha neanche chiuso a questo. E poi ha aggiunto c'è un crollo dell'economia senza precedenti nel secondo trimestre. La Banca Centrale Europea stima che l'area euro crolli dell'8,7% nel 2020 e faccia un più 5,2% nel 2021, parte che è una media dei vari paesi, e poi ci fa capire che il livello del 2019, stante le previsioni, non lo recupereremo nel 2021, e quindi per tornare al livello del 2019 bisognerà andare al 2022, immagino, con queste stime. Professor Donato Masciandaro, docente di politica monetaria all'Università Bocconi, editorialista Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Senta, professore, mi sembra, adesso non voglio essere, in attesa di vedere se utilizzeremo o no il MES, continuo a dire che io sono favorevole, e di capire quando e come soprattutto partirà il Recovery Fund. È vero che c'è il piano Sure della, e poi i soldi della BEI, ma mi sembra che lo strumento in questo momento più efficace sia ancora la Banca Centrale Europea. Il nostro spread è sotto i 200 punti, a 170, e abbiamo visto anche quanto poi questo influisca nei rendimenti di BTP, nei collocamenti che abbiamo fatto in questi giorni. Dottor Barisoni, questa è una partita che vorremmo tutti vincere, quella del rilancio economico, e intorno al tavolo ci sono dei giocatori che continuano a dire passo, vedo, invece c'è un giocatore che dice rilancio, e questa è la BCE. Se l'obiettivo è quello di affrontare al meglio la recessione pandemica, poi vedremo cosa succederà dopo, ma è l'unico giocatore che sta giocando. È vero. Ha fatto due rilanci, ha fatto un rilancio sulle azioni, lei le ha già ricordate e quindi è ok, ma ha anche rilanciato sul suo ruolo. Noi siamo indipendenti e rispondiamo solo alla Corte di Giustizia Europea, sì. Quindi se vuole il rilancio è stato doppio, ecco. Sì, anche perché questa è la risposta ai giudici costituzionali tedeschi della Karlsruhe, ha detto noi rispondiamo appunto solo alla Corte di Giustizia Europea, tant'è che anche il Fondo Monetario ha applaudito alla decisione della Banca Centrale Europea. Insomma, è una Christine Lagarde che dopo lo scivolone iniziale, quello non siamo qua per ridurre gli spread, mi sembra di poter dire, l'abbiamo molto criticata per quella gaffe, che ha preso un'azione molto, molto insistita, non dico da faro per gli altri, però come diceva anche lei, è l'unico giocatore che sta giocando veramente. Sì, ha fatto un errore, ma le persone intelligenti lo capiscono. E adesso la rotta è quella che la Banca Centrale Europea sta seguendo da Draghi in avanti. La differenza è che continua a pigiare sempre di più sull'acceleratore. Rilancia, rilancia, e gli altri continuano con vedo, passo. Ecco, però è chiaro a tutti che insomma, è fondamentale tenere i tassi bassi, è fondamentale avvisare che qualunque speculazione sui debiti sovrani andrà a scontrarsi contro la Banca Centrale Europea. È fondamentale permettere ai paesi come l'Italia, con un alto debito e alti tassi di interesse, di pagare meno, perché ci indebitiamo meno, paghiamo meno di interessi sul debito che emettiamo, che dobbiamo rimborsare. Però è chiaro che qui insomma, se il tavolo ha quattro gambe non è che si può reggere su una gamba sola, Masciandaro. Sì, anche perché diciamo la spada di Damocle degli effetti non convenzionali di questa politica ultra espansiva c'è sempre. Christine Lagarde ha ricordato in maniera molto elegante che non hanno bisogno di spiegare che devono fare l'analisi costi-benefici, loro la fanno sempre, ha ricordato, l'abbiamo fatto anche stamattina, questo è vero, però non si può negare che questo modo ultra non convenzionale di fare politica monetaria ha effetti redistributivi. È facile dire cerchiamo di essere simmetrici, ma non si è simmetrici quando si utilizzano tanti strumenti su un orizzonte temporale così lungo. Adesso siamo certi che fino al giugno del prossimo anno ci sarà questa ultra espansione monetaria, ma forse andiamo anche al 2022 e distorsioni ci sono, dottor Barisone. Sì, certo, perché poi, insomma, diciamo così, che tu rendi il denaro poco costoso e i debiti poco costosi da finanziare sugli interessi, però poi occorre anche che questo denaro venga speso e che vi siano gli investimenti, se ho ben capito il suo ragionamento. Sì, anche perché ci sono tre numeri che la Lagarde ha detto che dovremmo ricordarci: la crescita è negativa, i prezzi non salgono e la moneta invece galoppa. Questo significa, la Lagarde non l'ha detto, questo significa rischio trappola della liquidità. La moneta c'è, ma nessuno la spende. E quando mi prendono in giro qui i tecnici che dicono quando tu puoi dare quanta acqua vuoi al cavallo, ma il cavallo non vuole bere, questa è la trappola della liquidità. Cioè, o tu stimoli il cavallo a bere, o tu puoi mettergli sotto quanta acqua vuoi, e però non viene utilizzata. Ecco perché manca la parte, diciamo, dell'utilizzo di questi fondi. Però, per non vedere sempre, cioè, vedere anche in questo caso il bicchiere appunto mezzo pieno, almeno abbiamo una Banca Centrale Europea che ha ben presente l'emergenza economica, che ha tra virgolette tranquillizzato i mercati e soprattutto mandato un messaggio agli speculatori: noi continuiamo con questo piano fino al giugno, almeno fino al giugno del 2021, quindi si mette il cuore in pace chi vuole ipotizzare attacchi speculativi ai debiti dei paesi dell'area euro. Grazie anche al professor Donato Masciandaro, è veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, non c'è la poco invidiabile classifica, quando tornerà vuol dire che la situazione non sicuramente è buona, ma non è più emergenziale. A domani.